Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini incrociati si racconta la storia di una metamorfosi. Come accade alle farfalle, che da bruchi si trasformano in meravigliosi esseri alati dai colori più accesi, così può accadere anche alle persone che attraversano una fase di cambiamento. Il passaggio alla piena maturità, all'età adulta, è un processo complicato. La natura umana spesso e volentieri non è poi così diversa dalla natura in senso stretto, intesa come regno animale. Il bambino è un bozzolo, l'adulto una farfalla. La storia di oggi è il resoconto di un mutamento interiore ed esteriore le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Viviamo nell'era della visibilità, della perenne esposizione mediatica, del costante richiamo alla natura a volte splendida, a volte perversa, dei mezzi di comunicazione. Anche le metamorfosi umane e mediatiche spesso hanno bisogno di un catalizzatore, di qualcosa che inneschi, favorisca e acceleri il processo di mutamento che è in procinto di cominciare. La bomba esiste già. Serve qualcuno che dia fuoco alla miccia. Ed è proprio quello che ha fatto la nostra prima protagonista di oggi. Siamo agli inizi del terzo millennio, è notte, e ci troviamo nel cuore di New York, più precisamente nel Lower East Side di Manhattan. Per le strade si può sentire il rimbombo della musica assordante che anima la vita notturna dei locali underground. E per underground si intende di nome e di fatto, ubicati sotto il livello stradale. Questi luoghi danno spazio alla musica e alla spesso bizzarra performance di artisti emergenti, DJ, compositori. Questa sera, al Mercury Lounge, è il turno di una DJ sensuale e controcorrente, innamorata del rock e delle provocazioni. Il suo nome è Lady Starlight. Lady Starlight. She is the mistress of metal. Lady Starlight è il nome d'arte di Colleen Martin, classe 1975. La bruna e mascolina DJ, ballerina e performer, che è stata appena presentata con un microfono malandato in un locale gremito ma semi sconosciuto. La vita da DJ in effetti non basta a Colleen per mantenersi. È per questo che lavora anche come make-up artist per la MAC Cosmetics, una nota azienda canadese di prodotti per la cosmesi. Il trucco, d'altronde, è una componente fondamentale degli spettacoli di Lady Starlight. Questa sera, ad esempio, il suo show consiste in un bizzarro miscuglio di heavy metal, macchine per il fumo e costumi esagerati. Lady Starlight, avvolta in un pesante mantello nero e truccata come una maschera del fantasma dell'opera, si agita sul palco al ritmo incessante di un pezzo degli Iron Maiden. Lady Starlight, col suo strambo mix di influenze rock e dance, è la regina della brulicante vita notturna, rigorosamente sotterranea, del centro di New York. I suoi spettacoli innovativi mescolano sperimentazione e eccitazione, influenzati come sono dai suoni glam e metal degli anni 70 e 80. Bagliori laser, nebbie artificiali, fuochi ed eccessi drammatici sono perfetti per scioccare il pubblico. Ed è proprio questo l'effetto che Lady Starlight vuole ottenere. I suoi show sono l'evoluzione postmoderna del teatro, condito con dosi massicce di hard rock e stranezze assortite. In presenza di Lady Starlight, la pazzia è all'ordine del giorno, compiutamente sdoganata e resa a forma d'arte. Al di là delle moderne influenze rock e glam, c'è un altro genere che solletica l'immaginario della DJ newyorkese. Ed è un tipo di show che affonda le sue radici addirittura nel XIX secolo. Stiamo parlando del burlesque. Il burlesque era uno spettacolo nato all'inizio dell'Ottocento con l'intento di parodiare il mondo, le abitudini e i passatempi dell'aristocrazia e dei ricchi industriali. Il tutto per offrire un po' di divertimento e di respiro alle classi lavoratrici meno abbienti. Gli show si reggevano su una trama piuttosto esile ed erano infarciti di canzoni, numeri di ballo e spesso di siparietti carichi di comicità piuttosto spiccia e dozzinale. Per mantenere vivo l'interesse del pubblico, i registi mettevano sul palco qualche donna poco vestita. I primi burlesque americani fecero per quei tempi numeri da capogiro, diventando a tutti gli effetti un fenomeno di massa. I produttori capirono immediatamente qual era la ricetta di un tale successo e non fecero altro che seguirla per filo e per segno: più donne, meno vestiti. Meno vestiti, tuttavia, non significa nessun vestito. L'idea dello spogliarello a tutti i costi non è connaturata al burlesque. Si tratta, anzi, di una forma di emancipazione femminile, come spiega la regina del genere, la diafana e sottile Dita Fontese. Credo che la cosa interessante sia che il burlesque attualmente è un genere apprezzato da una grande fetta di pubblico e soprattutto dalle donne. Loro amano questo tipo di spettacolo, vogliono idealmente abbracciare quello stile un po' retro, amano divertirsi coi vestiti, sentirsi sicure di se stesse e potenti nel loro ruolo, che è diverso da quello della solita bionda in bikini che corre su una spiaggia a rallenti come nei film. Questa è un'altra cosa. Molte donne si ritrovano in questo stile, che è molto creativo, tutte lo possono imitare, basta tirar fuori le proprie fantasie e divertirsi a giocarci. La signorina Fontese è colei che tra gli anni 90 e il presente ha riportato felicemente in auge un genere vecchio di due secoli. La Cocktail Generation, cresciuta a cavallo degli ultimi due decenni del Novecento, si innamora della cultura del burlesque. Le musiche che accompagnavano i vecchi spettacoli vengono ripubblicate su CD, si recuperano i filmati di esibizioni girate in studio, si diffondono libri con le foto dell'epoca d'oro. Il burlesque, insomma, all'inizio del terzo millennio, conosce la sua fase di rinascita. E non ci vorrà molto prima che qualcuno, anziché limitarsi a recuperare il passato, scelga di aggiungervi un tocco di novità. Una sperimentatrice del calibro di Lady Starlight non può certo lasciarsi sfuggire l'ennesima occasione per contaminare i generi, trasgredire e scioccare il suo pubblico. Il burlesque negli spettacoli di Lady Starlight instaura un dialogo fecondo con il punk, il gotico, il rockabilly, dando vita a un mix che sembra addirittura avvicinarsi alle performance degli artisti d'avanguardia. E a questo punto, all'apice di una fase ricca di nuove suggestioni e di idee, che nella vita di Lady Starlight fa capolino una nuova, importantissima figura. All'anagrafe il suo nome è Stephanie Joan Angelina Germanotta. Tutti però la conoscono col suo nome d'arte, Lady Gaga. Lady Gaga. Ho iniziato a fare degli spettacoli a New York con la mia amica Lady Starlight e, beh, diciamo che mio padre pensava che io fossi completamente andata fuori di testa. Lady Starlight e Lady Gaga iniziano a esibirsi insieme nei club newyorkesi, mischiando l'hard rock e la dance col piglio irriverente del burlesque. È l'inizio del 2007 e il padre della 21enne Gaga sembra non apprezzare particolarmente l'aspetto piccante delle performance della figlia. Ma com'è arrivata questa giovanissima donna a dividere il palcoscenico con una delle figure più controverse della scena underground newyorkese? Accantonate un momento la Lady Gaga dei nightclub e lasciate in un angolo anche quella celeberrima e truccatissima a cui vi siete abituati negli ultimi 12 mesi o poco più. Qui è doveroso fare un passo indietro. Prima di arrivare alla nascita della farfalla, dobbiamo ripartire dal bozzolo. Stephanie Joan Angelina Germanotta nasce a Yonkers, nella contea del Westchester, il 28 marzo del 1986. Con i suoi 196.000 abitanti, Yonkers è la quarta città più popolosa dello stato di New York e confina con il famigerato Bronx, 3 km a nord di Manhattan. Il quartiere, quel quartiere, da una decina d'anni non assomiglia più alla Babele minuziosamente descritta in decine di film polizieschi. Ormai è una sorta di zona residenziale, un ennesimo baluardo del buon vicinato, un posto perfetto per crescere tranquillamente la prole. Entrambi i genitori di Stephanie, Joseph e Cinzia, sono di origine italiana, palermitani per la precisione. Joseph Germanotta è uno stimato e facoltoso imprenditore che però non disdegna di coltivare una discreta passione per la musica. Ben vengano dunque le velleità artistiche della giovanissima Stephanie che a soli 4 anni inizia a suonare il pianoforte. Stefani ha la musica nel sangue. Ha solo 13 anni quando compone la sua prima ballata e a 17 è una delle 20 persone al mondo ad avere ottenuto l'ammissione alla Teach School of the Arts della New York University. Una bella soddisfazione per i genitori, ma Stefani non è contenta. Il suo è un talento irrequieto, è difficile da comprendere e da domare. Avevo questo sogno, volevo essere una star. Ero praticamente un mostriciattolo, ma pieno di ambizioni. La Stefani mostriciattolo, quella figura che ancora somiglia più a un bruco che a una farfalla, si rifugia nella musica come antidoto alla mancanza di fiducia in se stessa. Passa gran parte del suo tempo scrivendo canzoni e guardando il proprio riflesso nello specchio. La sua futura ossessione per l'immagine forse scaturisce proprio da qui. New York University sta stretta alla giovane promessa della musica, benché non si tratti dei banchi del liceo, rinomata palestra di crudeltà adolescenziali. Stefani non può fare a meno di sentirsi sbagliata, diversa dal resto del mondo. Questo senso di inadeguatezza, di perenne difetto nei confronti degli altri, sarà il motore di molte delle sue scelte future. Per ora, tuttavia, costituisce semplicemente un ostacolo alla sua serenità e al ménage dei suoi studi musicali. Sono sicura che a molti sia capitato di sentirsi discriminati a scuola, di sentirsi fuori posto, e magari ci si sforzava di voler essere come tutti gli altri, ma dentro non lo si voleva davvero. Dentro magari qualcuno avrebbe preferito assomigliare a Boy George. Era quel che volevo io, in effetti. Il genio di Stefani è difficile da addomesticare. Lei lo coltiva ascoltando la musica che spopolava quando ancora non era nata. Dai Cure ai Culture Club, a David Bowie, passando per i Queen e per il loro carismatico leader, Freddie Mercury. Stefani ancora non immagina che proprio i Queen, per via di una celebre canzone, saranno legati alla sua fortuna. Per ora si ripiega sul suo innegabile talento, sorretta dall'appoggio dei genitori, come è lei stessa a ricordare. Suono nei locali da quando avevo 14 anni. Mia madre mi accompagnava nei nightclubs, firmava per farmi entrare. Stefani bazzica i club di tutta Manhattan, suonando sia cover che pezzi originali, frutto del suo precoce genio compositivo. Il suo talento è innegabile. Non serve necessariamente un orecchio esperto per rendersene conto. Next up is a very talented singer-songwriter, Stefani Germanotta. And she has composed two original pieces for us. And she's gonna come out and perform them right now. So listen up. La sfacciataggine del talento di Stefani, tuttavia, non le basta per sentirsi al sicuro. Anzi, non fa che renderla sempre più inquieta. Abbandonata la scuola di musica e con essa la casa paterna, Stefani sceglie di andare a vivere per conto proprio. Per racimolare i soldi necessari a mantenersi, ovvero per procurarsi quel che serve per mangiare e pagare l'affitto, Stefani inizia a esibirsi in certi club del Lower East Side, assai meno raccomandabili di quelli in cui la madre premurosa l'accompagnava per le sue esibizioni adolescenziali. Suona con gli amici che fanno parte di gruppi musicali dai nomi e dalle capacità discutibili, i Making Pulsifer e gli SG Band, dove SG, manco a dirlo, sta per Stefani Germanotta. E se la musica non basta per sbarcare il lunario, ben vengano il lavoro come cameriera e quello meno comune, ma certamente lucrativo, come spogliarellista. Vallo a dire al signor Germanotta. Non è per niente stato facile per mio padre, soprattutto all'inizio. Non ci siamo parlati per mesi dopo la prima volta che mi ha vista esibirmi. Mia madre mi ha confessato che lui temeva che io fossi mentalmente instabile. Non si tratta di instabilità mentale, ma solo della foga, dell'ansia di una giovane donna alla ricerca della sua dimensione ideale. È la farfalla imprigionata nella crisalide, che tenta invano di sbattere le ali, ansiosa di spiccare il volo ma ancora costretta dall'inesperienza, dalle consuetudini e dal destino a restare lì, nel suo bozzolo, chissà ancora per quanto. Nessuno più di lei sa quel che significhi inseguire un sogno già dall'infanzia, costellare la propria vita di tentativi, sacrifici e rinunce. I started with nothing. It was a keyboard and a... Io ho davvero cominciato dal niente. Tutto quello che avevo era una tastiera e un appartamento di 37 metri quadri. Lontana dalla casa in cui è cresciuta, Stephanie si ritrova per la prima volta sola. Non importa quanto diventerai famosa, né quante persone ti ameranno. Hai sempre solo due genitori. Ma per Stephanie non è ancora giunto il momento di ricomporre il suo rapporto col padre e la madre. Ci sono cose più importanti a cui badare ora. C'è in gioco il suo sogno di gloria, la sua ansia di compiere una metamorfosi. È l'inizio del 2007 e Stephanie, già frequentatrice di locali specializzati in spettacoli generosamente conditi di elementi burlesque e di striptease, incontra la performer Lady Starlight e inizia a esibirsi con lei. I loro show mischiano la musica alla danza, il canto agli ammiccamenti, la dance da pista da ballo alle sperimentazioni frutto del talento di Stephanie. È lei a scioccare maggiormente il pubblico col suo mix irresistibile di musica e sensualità strabordante. Suona la sua tastiera rigorosamente in bikini. Canta e si agita, lasciando che i lustrini che ricoprono il suo giovane corpo proiettino giochi di luce sul pubblico in estasi. Mai visto niente di simile. L'incontro con Lady Starlight ha innescato la bomba Gaga. Non si tratta più di fare striptease per pagare l'affitto. Gli spettacoli del duo sono una forma d'arte e ottengono parecchia attenzione. I locali in cui si esibiscono, dal Mercury Lounge al Bitter End, spesso fanno il tutto esaurito. Le locandine del periodo recitano Lady Gaga and the Starlight Review, The Ultimate Pop Burlesque Rock Show. Il pubblico Stephanie Germanotta è ufficialmente diventato la farfalla Gaga. Ora che possiede un paio d'ali, sarà molto più facile volare su fino alle stelle. Cold fire, you've got everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you, so tired. It's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see white. It can all but break your heart. Destini incrociati. Destini incrociati assiste allo sbocciare della carriera di Stephanie Germanotta, in arte Lady Gaga. Il suo incontro con una DJ e performer newyorkese, nota come Lady Starlight, ha innescato la miccia che ha portato una bruna ragazza di buona famiglia a trasformarsi nella platinatissima eccessiva Gaga. L'unica ineliminabile costante del suo percorso, un talento musicale fuori dal comune e fuori da qualunque schema. La metamorfosi di Stephanie in Gaga è un processo complicato, ricco di variabili. Dunque sarà bene esplorarlo con calma. Tutto è nato da un soprannome che mi aveva dato il mio produttore, Rob Fusari. Mi chiamava Gaga, per via della canzone dei Queen. Tutto qui. L'origine del soprannome Gaga sta nel celebre pezzo della band inglese capitanata da Freddie Mercury. Gaga, due sillabe, nient'altro che la ripetizione di un suono elementare, è una delle prime parole che escono dalla bocca dei bambini quando cercano di imitare il linguaggio degli adulti. Il nome perfetto per battezzare una rinascita, l'avvento di una nuova vita, di una nuova carriera, di una nuova frontiera della musica pop. Rob Fusari, autore forse inconsapevole dell'azzeccatissimo nome della futura star, è un giovane produttore musicale cui era capitato di assistere a qualche esibizione della giovane Germanotta quando era ancora imprigionata nel suo bozzolo. Il pezzo che avete appena ascoltato è Red and Blue, tratto dall'omonimo EP uscito nel 2006 e firmato a nome Stephanie Germanotta. Poche le copie stampate, ancora meno quelle vendute dalla futura pop star e dal suo gruppo, la Stephanie Germanotta Band, dopo i soliti concerti nei club. Le influenze rock e glam si fanno sentire, ma lo stile è ancora acerbo e troppo simile a quello di tante altre cantanti in cerca di successo. I virtuosismi di Stephanie al pianoforte non bastano a farne un fenomeno senza precedenti. Serve qualcosa di nuovo, qualcosa di sconvolgente, qualcosa che sappia unire le istanze contrastanti della personalità di Stephanie: la ragazza per bene e il talento incompreso, la cocca di mamma e la musicista ribelle. Ed è qui che entra in gioco Lady Starlight. Stanca dello stile dei gruppi con cui si esibisce nei club newyorkesi, Stephanie cambia decisamente rotta. Non ne può più di scrivere ballate sui cuori spezzati e si accorge di essere lontana dall'idea di arte che insegue con ostinazione fin da quando è piccola. Stephanie scalpita per diventare Gaga. Vuole un riscatto dopo anni di lotte contro il suo senso di inadeguatezza. Gli eccessi di Gaga, del personaggio Gaga, ben lungi dall'essere costruiti a tavolino, sono un modo, l'unico modo possibile per riappropriarsi della sua identità di artista, come racconterà lei stessa in un'intervista ormai già all'apice della fama. Dicono che io sia artificiale, costruita, unicamente in cerca di attenzione. La verità è che ogni più piccolo pezzetto di me è votato all'amore e all'arte e aspiro ad essere una specie di maestra per i miei giovani fan che si sentono come mi sentivo io quando ero più giovane. Quel che voglio dire è che vorrei che si sentissero liberi, liberi dalle loro paure, liberi di crearsi il proprio spazio nel mondo. È un periodo, quello che procede stancamente verso la fine dei cosiddetti anni zero, in cui la musica pop sembra essersi ripiegata su se stessa fino ad addormentarsi. Le giovani star femminili che avevano spopolato tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio, da Britney Spears a Christina Aguilera, sono ormai vittime dei loro stessi ripetuti tentativi di recuperare la formula magica del successo. Una delle poche artiste che sembrano riuscire a sottrarsi allo schema è Beyoncé Knowles, ex leader delle Destiny's Child, che all'inizio del 2007 è forse l'unica artista la cui stella brilli ben al di sopra delle altre. Né lei, nell'ancora acerba Lady Gaga, immaginano che i loro destini musicali, presto o tardi, si incontreranno felicemente. Stephanie sceglie dunque di aggiungere un pizzico di divertimento, di sale e di peperoncino alla sua musica. All'inizio del 2007 inizia a esibirsi con Lady Starlight. I loro show sono un tributo lo-fi agli spettacoli di varietà, ricchi di elementi eterogenei e infarciti di citazioni degli anni 70. Gaga al sintetizzatore, Starlight ai piatti, coreografie da go-go dancer, lingue infuocate di lacca per capelli da spruzzare sul pubblico. Le due musiciste sembrano non avere freni di alcun tipo. Starlight aiuta Lady Gaga a creare i suoi costumi di scena ispirati agli spettacoli di burlesque e al look eccessivo delle drag queen. Tutto si svolge all'insegna della più completa libertà di costumi e degli orientamenti sessuali. Lady Gaga in persona è la prima a non fare mistero a proposito dei suoi gusti. Io sono sempre stata onesta sulla libertà dei miei orientamenti sessuali. All'inizio della mia carriera dissi che non mi andava di rispondere alle domande sulla mia sessualità e lo feci solo perché non volevo che i miei fan gay pensassero che li stessi usando per sembrare controcorrente. Com'è controcorrente Gaga, le piacciono le ragazze. E poi sono state pubblicate quelle foto di me e Lady Starlight a New York e non c'è più stato molto da dire a riguardo. Nell'agosto del 2007, gli organizzatori del celebre Lollapalooza Festival invitano Gaga e Starlight a esibirsi. Le foto del concerto ritraggono una Gaga indiavolata sul palco, strizzata in un minuscolo bikini, arrampicata su vertiginosi tacchi a spillo. Il tutto sormontato dalla folta chioma corvina che la caratterizza sin dall'infanzia. Il successo dell'esibizione a Lollapalooza fa capire a Gaga che è nella trasgressione, nella commistione di elementi eterogenei, nel gusto del trash, che troverà il veicolo perfetto di espressione della sua arte, del suo talento. È davvero arrivato il momento di cambiare rotta. Per prima cosa, Gaga inizia a tingersi i capelli di biondo. Vuole rifarsi a suo modo a Britney e Christina, le biondine platinate che una volta uscite dal Mickey Mouse Club avevano dominato il pop a cavallo tra i due millenni. Un omaggio ironico e disincantato il suo. Gaga sa perfettamente di non avere nulla a che spartire con loro e di possedere talento e carisma sufficienti per polverizzare qualunque paragone. Nel novembre di quello stesso 2007 smette di esibirsi con l'amica Starlight e si butta con tutta se stessa nel tentativo di intraprendere la carriera solista. E Rob Fusari, il giovane talent scout che ha iniziato per scherzo a chiamarla Gaga, a presentare la giovane a Red One, produttore sulla cresta dell'onda per avere recentemente lavorato con Shakira, il rapper Akon e i redivivi New Kids on the Block. È a questi ultimi due nomi che si lega il talento di Gaga. È proprio Akon, artefice della sua definitiva uscita allo scoperto, a parlarcene. L'ho incontrata in qualità di autrice insieme a Red One. Lei ha un talento incredibile. Abbiamo pensato che fosse inevitabile non lavorare insieme. Lady Gaga, tanto per cominciare, mette il suo talento di compositrice al servizio degli altri. Scrive pezzi per i New Kids on the Block, per le Pussycat Dolls, addirittura per l'ormai decrepita Britney Spears. Akon non può fare a meno di notare la giovanissima promessa del pop, che nel frattempo è decisamente entrata nel personaggio. Chioma platinata, abiti stravaganti, aria vagamente stralunata sono il perfetto contorno del suo talento straripante, come ricorda lui stesso. Stavo lavorando con le Pussycat Dolls e ho capito quanto fosse brava a scrivere. Il giorno dopo l'ho incontrata in sala prove ed ho capito quanto fosse brava a cantare. Il giorno seguente ho iniziato a chiedermi: chissà cosa indosserà oggi. L'aspetto stravagante di Lady Gaga è una componente fondamentale del suo successo. È ciò che la rende nettamente diversa dalle altre star del pop, che la proietta in una dimensione diversa, fumettosa, trasognata, oltre che provocante e trasgressiva. Gaga mischia il barocco al postmoderno, le piume al latex, senza mai rinunciare a un pizzico di vertigine. Voglio dire questo. Preferirei morire piuttosto che farmi vedere dai miei fan senza un paio di tacchi a spillo. Nell'aprile del 2008 i tempi sono ormai maturi. Lady Gaga è pronta per esordire nel sonnecchiante mercato discografico. Lo fa con Just Dance, un ritmato pezzo dance dalla forte e studiata componente pop, in cui Gaga canta su un sottofondo incessante di melodia al sintetizzatore frasi come: che succede al pavimento? Amo questo disco, baby, ma non riesco più a vedere dritto. Un inno alla festa, alla trasgressione, alla temporanea perdita di coscienza. Il pezzo, acclamato dal pubblico e dalla critica, balza in testa alle classifiche di mezzo mondo. È nata una nuova stella. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nella seconda metà dei controversi anni zero, anni in cui il mercato discografico mondiale sembra avere perso smalto e direzione. Lady Gaga, col suo affascinante miscuglio di pop e trasgressione, di talento autoriale e derive kitsch, ha risvegliato nel mondo della musica la voglia di stupire, di inventare, di produrre non solo canzoni e dischi, ma vere e proprie forme d'arte. A me non interessa essere una celebrità. A me interessa essere un artista. C'è una grossa differenza. Nella primavera del 2008, Lady Gaga ha pubblicato il suo primo singolo, Just Dance. La hit raggiunge la vetta delle classifiche negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e molti altri paesi. A guardarlo dal di fuori, il fenomeno sembrerebbe ripetere ancora una volta lo schema della One Hit Wonder, il singolo fortunato che manda in tilt le classifiche di mezzo mondo, ma non contribuisce a consacrare un artista. Una sorta di corrispettivo musicale del quarto d'ora di celebrità teorizzato da Andy Warhol, insomma. Ma Gaga non ha nessuna intenzione di sparire dopo 15 minuti di bruciante successo. E per evitare che ciò accada, prende lezioni da Warhol in persona. He made his own fame. Lui ha costruito la sua fama usando la fama di altra gente. L'ossessione di Andy Warhol per la proliferazione e la riproduzione dei simboli della cultura di massa si traduce in Gaga nel continuo e costante richiamo al concetto di fama e alle tragiche conseguenze che essa può avere sulla vita delle persone. Il primo album di Lady Gaga, The Fame, esce nell'agosto del 2008. Il titolo del disco è decisamente eloquente. È un messaggio importantissimo per me da divulgare, perché c'è questo grosso equivoco secondo cui il mio album The Fame sia tutto incentrato su quanto sia bella la fama. Ma io non ero affatto famosa quando ho inciso il disco. Non ero nessuno. Lady Gaga, nonostante l'aspetto sfacciatamente bizzarro, così lontano dalla quotidianità, spesso ama rivendicare il suo essere normale. Well, I am a songwriter. Beh, sono una cantautrice, sono un entertainer. Sono una figlia e una sorella. And a sister. Gli eccessi di Gaga hanno un unico scopo: quello di incentivare e sorreggere tante altre metamorfosi come la sua. Le sue bizzarrie nel vestire, i suoi comportamenti disordinati in fatto di amore e di sesso, la sua costante ansia di contaminazione, non sono altro che un inno alla libertà di scegliere, di sbagliare, di cambiare, di rinnovarsi. Non bisogna avere per forza un unico indirizzo, un unico scopo, un'unica faccia. Gaga grida al mondo che si possono reggere più ruoli, più giochi, contemporaneamente. Poker Face, secondo singolo estratto da The Fame, replica e amplifica il successo della cantante. Il Fame Ball Tour, che parte da San Diego il 12 marzo del 2009, vedrà la star esibirsi senza tregua, saltellando da un continente all'altro: Stati Uniti, Europa, Asia, Oceania. Gaga, partendo dagli scantinati della sua città natale, New York, ha letteralmente conquistato il mondo. L'amica Lady Starlight, in occasione del tour mondiale, collabora nuovamente con la neonata stella. Alcune date del Fame Ball Tour vedono Gaga e Starlight riunirsi sul palcoscenico in onore dei vecchi tempi, riproponendo numeri a base di follie che avevano contraddistinto il loro show nel passato. Ora però è tutto diverso. Gaga è un fenomeno mediatico, la cui ascesa sembra davvero inarrestabile. Se Gaga era partita per il tour abbastanza famosa, ne esce completamente travolta. La crescente pressione del mercato, la costante sovraesposizione, l'essere costantemente inghiottita da una folla adorante fanno nascere in lei e nei suoi collaboratori l'idea di pubblicare immediatamente un nuovo disco. The Fame Monster, il cui tema centrale ancora una volta è il lato oscuro della fama, sorta di macchina mostruosa capace di stritolare qualunque cosa, esce il 18 novembre del 2009, a soli 6 mesi dall'inizio del tour e a poco più di un anno dalla pubblicazione del primo disco. Inarrestabile e dir poco. Può darsi che la fama stritoli, ma certamente regala anche molte soddisfazioni. She's eccentric, she's extrovert, she's bonkers. È eccentrica, estroversa, un po' matta. Secondo il prestigioso Time Magazine, Lady Gaga è anche una delle persone più influenti al mondo. La rivista ha pubblicato la sua annuale classifica delle 100 personalità più influenti del globo. Leader politici, pensatori, eroi, artisti. E Lady Gaga sta proprio lì, in mezzo a nomi del calibro di Barack Obama e Oprah Winfrey. Un bel riconoscimento per la 24enne di buona famiglia che sognava di portare la sua arte nel mondo dello showbiz. Eppure in fondo a lei non interessa più di tanto. I riconoscimenti le fanno piacere, ma quello che conta è la sua arte e l'amore per i suoi fan. I don't care what anybody else is doing. I really don't. A me non interessa il lavoro altrui. Io resto concentrata al 100% sul mio lavoro, sull'essere innovativa, originale e profonda. Questa parola per me è importantissima. Spesso la gente pensa che la musica elettronica sia senza anima, e invece non lo è affatto. E sai perché? Perché l'anima, lo spirito che io sento arrivare dai miei fan durante le mie esibizioni, non può essere frutto di una menzogna. Non può. Hanno dei volti così intensi, stanno lì in carne ed ossa e spirito. Ci sono le paillette, il sudore, la gente che balla, le parrucche. I miei fan credono così tanto in tutto questo grandioso spettacolo. Ed è tutto vero. In quei momenti è tutto vero. Sono loro che fanno vivere la mia musica. Non solo i riconoscimenti non le interessano più di tanto, ma Gaga conserva anche una buona dose di distacco ironico nei confronti della critica, che nel corso di questi rutilanti mesi ha tentato di paragonarla un po' a chiunque. Mi sono accorta di arrivare al di là dei paragoni, più in fretta di quanto io mi sforzi effettivamente di assomigliare. Ho sempre fatto musica a New York e sono stata paragonata a così tante cose diverse. Quando ero bruna mi chiamavano Amy Winehouse, quando poi mi sono fatta bionda hanno cominciato a chiamarmi Madonna, poi Christina, poi Gwen. Si divertono ad elencare le star femminili del pop. Gaga continua imperterrita per la sua strada all'insegna dell'innovazione artistica, mescolando continuamente il suo innato talento musicale con la sua sensibilità, altrettanto spiccata, per la componente visiva. L'importanza dei video musicali nella carriera di Lady Gaga è capitale. Essi hanno contribuito a creare l'immagine che tutti abbiamo di lei, imprimendo nei nostri occhi e nella nostra memoria quella figura controversa, eccentrica, esplosiva a cui ormai siamo abituati. Il video di Bad Romance, primo singolo estratto da The Fame Monster, unisce la bellezza dei costumi e delle coreografie a un'ossessione più intima, vissuta da Gaga in primissima persona. E la Gaga farfalla a parlarcene. È il mio video preferito finora. Ho fatto questo gioco insieme ai miei ballerini. Abbiamo giocato a fare i piccoli mostri che escono dalle loro uova ed entrano nel mondo. Crescono, si evolvono. Il tema centrale è l'evoluzione. E l'ho scelto perché sento di essere evoluta io stessa, come donna e come artista. E anche perché nessuno aveva pensato di fare una cosa simile prima di me. Innovatrice per eccellenza, Lady Gaga non intende fermarsi per nulla al mondo. Non sono ancora sicura di avercela fatta. Il punto non è raggiungere un solo obiettivo, ma riuscire a portare avanti una vera, lunga carriera sostenuta dai miei fan. Ed è loro che devo ringraziare. È da loro che viene la mia ispirazione quando scrivo. Quando le cose vanno troppo bene, spesso ti ritrovi a pensare che accadrà qualcosa di brutto. E invece per me ora è diverso. Mi sono svegliata un giorno e avevo raggiunto l'apice della fama. Ed è solo grazie a voi. Gaga ama i suoi fan alla follia e vede in ciascuno di loro una potenziale farfalla pronta per spiccare il volo. Tra i suoi ammiratori spiccano anche personalità del calibro di Clint Eastwood e Quentin Tarantino. Quest'ultimo, ripetutamente omaggiato nel recente video del singolo Telephone, pare abbia espresso la volontà di coinvolgere Gaga in uno dei suoi prossimi progetti sul grande schermo. Non ci resta che aspettare trepidanti, certi che il connubio Lady Gaga-Tarantino saprà regalarci infinite soddisfazioni. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.